Una delle qualità più importanti per imparare a comunicare meglio è il saper ascoltare. Chi sa ascoltare non solo fa un regalo incredibile a chi ha di fronte, chi sa ascoltare ha anche una marcia in più. Vi ho già parlato di tre attenzioni fondamentali per migliorare, elevare la vostra capacità di ascolto. Oggi vorrei scendere un po' più nel profondo, parlandovi di un'idea molto semplice, ma estremamente potente per sviluppare un ascolto di qualità. L'idea è questa: immagina di essere a teatro e immagina che la persona di fronte a te sia sul palcoscenico. In questo momento è lei la protagonista assoluta della scena. Sul palcoscenico c'è lui, tu in questo momento devi soltanto guardare ed ascoltare, non devi fare altro. Da questa semplice idea ecco tre cose che non dobbiamo assolutamente fare se vogliamo imparare ad ascoltare in modo più profondo. Primo. Non interrompere, per nessun motivo. Se possibile, non chiedere neppure ulteriori spiegazioni o precisazioni. Lascia semplicemente che i pensieri dell'altro fluiscano dal suo cuore verso il tuo. Ti sarà capitato chissà quante volte di parlare con qualcuno di qualcosa di tuo, di profondamente tuo, e di sentirti interrotto. E in quel momento gli avresti voluto urlare: ma lasciami finire, lasciami parlare. Ai bambini spesso si insegna a non parlare mentre mangi. Sarebbe bello che tutti noi adulti imparassimo che non bisogna parlare mentre si ascolta. Apri le orecchie, chiudi la bocca. Più semplice di così. Secondo, non pensare alla risposta. Ti sarai accorto tantissime volte che mentre ascolti tu sei già concentrato nel pensare alla risposta che vorrai dare alla persona quando avrà finito. E questo ti impedisce di avere un ascolto veramente libero, profondo, perché non sei focalizzato su di lui, ma sei focalizzato su di te. Ancora una volta, se mentre l'altro parla tu stai pensando a quello che gli dirai tu, al centro del palcoscenico non c'è lui in questo momento, ma ci sei tu che stai cercando una risposta. Pensaci bene. Molte volte non ascoltiamo con l'intento di capire, ma ascoltiamo con l'intento di rispondere. Terzo, non mettere sullo stesso piano la sua esperienza con la tua. Questa cosa forse è leggermente controintuitiva, nel senso che ci sembra che vada contro il buon senso. Mi spiego meglio. Mentre noi ascoltiamo il racconto di una persona, facilmente ci ritornano in mente esperienze analoghe che anche noi abbiamo vissuto e ancor di più risalgono alla nostra memoria le emozioni che abbiamo vissuto in quei momenti. Emozioni simili a quelle di cui ci sta parlando il nostro interlocutore. Per questo motivo può venirci la voglia di dire: anch'io ho vissuto la stessa cosa. Ci sembra un buon aggancio, ci sembra importante, utile per far capire all'altro che lo stiamo capendo veramente. Può essere vero, ma è pur vero che tutte le esperienze personali sono uniche. Ti sta parlando di un problema che sta vivendo sul lavoro? Non dirgli che anche tu stai vivendo la stessa cosa. Ti sta raccontando la sofferenza dell'aver perso un familiare? Non iniziare a parlargli di ciò che hai vissuto tu quando hai perso quella persona. Non è la stessa cosa, non lo è mai. Anche se hanno punti in comune, tutte le esperienze sono individuali, sono uniche. Non parlare di te. Resta soltanto in ascolto. Serviti piuttosto di quell'esperienza che ti è tornato alla mente, soprattutto di quell'emozione, per cercare di intuire quello che sta vivendo lui. Provaci oggi stesso. La prossima volta che una persona ti racconterà qualcosa, immagina di essere a teatro. Ascoltala in silenzio, con il cuore, non interromperla in nessun modo. L'udito è un senso, ma l'ascolto è un'arte. E imparare ad ascoltare in silenzio è un grandissimo atto di amore.